fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, benvenuti a tutti, è l'1 e 7 del mattino, è sabato 23 giugno del 2018. Allora vediamo, io dico 4. Non sente niente, no, stiamo facendo un gioco un po' particolare perché dovete sapere che ci sono delle ascoltatrici fuori che stanno cercando di raggiungerci adesso. Allora, io dico 4, che numero ho detto? C'è lo streaming, aspetta, c'è un attimo. No, non mi ha sentito, niente. 4, eccolo, è arrivato. Facciamo un'altra prova, io dico 25. Ma c'è il ritardo, è normale, tranquillo. No, vabbè, niente. Continuano a dire qua, probabilmente è andato in loop al ritornello. No, stiamo cercando di farci sentire dalle nostre ascoltatrici fuori che tra poco saluterò. Eccolo, è arrivato. E dicevo, Ristoradio Convento che ospita come sempre tutti i festeggiati, tutti gli ospiti che sono qui da noi per raccontarci un po' della loro vita, per fare quattro chiacchiere insieme a noi. E iniziamo con una sposa che è tutto un programma, perché già dal nome può dire e raccontarsi tante cose, e che si è scatenata bene stasera, l'abbiamo vista. Buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti, ciao. Oh, come ti chiami? Mi chiamo Alice. Vedete che già dal nome capite che viene da quel posto. Dalle meraviglie. Da quel posto magico che un po' tutti abbiamo sognato nella nostra vita. Ma in verità, Alice, da dove vieni? Vengo da Berbenno, in provincia di Bergamo. Ecco, che se dite Berbenno per quattro volte vi danno un premio Nobel, a prescindere. Perché è difficilissimo dirlo per quattro volte Ah, l'ha capita! Ha riso, ha capito la battuta. Hai visto? Che roba, bellissima sta cosa. E allora mi devi 50 euro per quella cosa che ti ho prestato l'altro giorno. 50 euro. Buona 50. No, aspetta che adesso arriva, vedrai quando lo sente. Che faccia che ci fa. Senti che bello, il bello della diretta. La gente che non capisce quello che stiamo facendo, né che stiamo aspettando questo momento topico. Eccola, Vedi, è arrivata, molto bene. E dicevo, Alice da Berbenno, quindi cosa festeggi con noi stasera? Festeggio il mio addio nubilato. E quando? C'è entusiasmo come giusto che sia. Lei ha entusiasmo a prescindere. E con chi ti sposi e quando, Alice? Mi sposo con Roberto il 25 agosto di quest'anno. Perfetto, quindi avete scelto di, come dire, creare problemi più o meno a tutti gli invitati facendoli saltare le ferie completamente per quest'anno. Esatto, vabbè. Direi che è una buona scelta e da questo punto di vista avrete sicuramente un numero di amici esponenziale dopo la vostra data del matrimonio. Tutti vengono. No, da lì sì, perché mangiano a scrocco. Dal 26, dopo che gli avete rovinato le vacanze di quest'anno, e non te ne trovi più nessuno. E questa è la dura verità. Io ho questo ruolo nel mondo, cioè dire la verità e le cose come stanno. Quindi ti metto a coscienza di quello che succederà. Ma noi partiremo e quindi ciaone a tutti. Però prima o poi dovrei anche ritornare. Per dove parte di bello? Andremo negli Stati Uniti. Fai il tour o una città in particolare? Tour in macchina. In macchina? Già noleggiata? Noleggiate là? Già noleggiata. Già tutto pronto? Già tutto pronto. Bene. E hai già idea di qualche città che toccherete o un po' improvvisato? San Francisco, Las Vegas e i parchi nazionali. Ah, ok. San Francisco, Las Vegas e i parchi nazionali. Interessante. L'avete programmato voi? Ve l'hanno programmato? Ce l'hanno programmato. Abbiamo solo gli hotel, poi tutto il resto dobbiamo farlo da soli. Speriamo di non perderci. Ma no, che non ti perdi. Ma che vada, negli Stati Uniti si trova sempre lavoro. Si riesce sempre a trovare... No, è vero. Tra l'altro è bello che le tue amiche per celebrare questo viaggio siano vestite da un po' da Marine. No, ora spiegaci. Siamo principesse. Ah, ok. No, ma io parlavo del colore. Ah. Un po' da Marine e un po' da Ranger del parco di Yellowstone. E quindi hanno così voluto ricordare cromaticamente questo tuo viaggio. Nel frattempo direi di approfittare anche per presentarci un po' le tue amiche. Che dici? Vai. Allora, qui con me ci sono Chiara, Elena, Francesca, Carlotta e fuori salutiamo Valentina e Ramona. Valentina e Ramona, molto bene, che sono le ascoltatrici tipo che si stanno prendendo 200.000 watt di onde elettromagnetiche perché stanno ascoltando il programma dal telefono e quindi adesso non lo sanno ma si ammaleranno tantissimo perché le onde sono nocive come ben si sa. Allora, dici un po' che rapporto hai con loro, sono tutte amiche, qualche collega, qualche cugina, qualche parente? No, sono tutte amiche e devo ringraziarle perché hanno organizzato loro tutto. Sono venute a prendermi oggi pomeriggio, mi hanno portato qui. Io non sapevi nulla? No. Ah, ok, a che ora sei partita? Sono partita oggi pomeriggio alle 2, non so quando tornerò a casa. Vabbè, quello è normale, è più o meno un'esperienza. Sì. se tornerai a casa. Lei è la donna dei sei, ho già capito, perché prima è venuta e ha detto: allora mi fai un saluto alla sposa se si sposa, tornerà a casa se torna a casa. E lei è... ci vuole nel gruppo una persona che mette dubbio, che crea dubbio e crea un po' di... cioè dà incertezza. Ci vuole quella persona lì ed è giusto che ci sia. E cosa non ti hanno detto? Cioè, ti hanno dato qualche indizio, qualche elemento? Niente. Nulla. Nulla di nulla. Le cose man mano succedono. Beh, è che è anche un po' uno stile di vita, una filosofia di vita interessante. E quindi solo le amiche, avete già programmi anche per domani o finisce qui? Sì, ah, no. Loro li sanno, ma io no. Surprise. Ma quello? Ah, surprise. Ma anche per voi o solo per lei? Ah, ok, voi lo sapete, voi lo sapete. Bene. E allora cosa fai nella vita, come lo dicevi prima, a Berbenno, di bello, perché è molto bello? Faccio l'educatrice per i bambini della scuola d'infanzia. La scuola d'infanzia, che età? 3-5 anni. 3-5 anni, che è l'età della scoperta, in sostanza, sì. Quando tutto è bello, tutto è magnifico, tutto è meraviglioso, come un po'... accennavamo all'inizio, ho avuto un attimo di mancanza di lingua italiana. E da quanto fai questo lavoro? Da più o meno 5 anni. E beh, quindi già parecchio tempo. È la cosa che hai sempre sognato di fare o è una cosa che ti è capitata durante il tuo cammino? No, lavorare con i bambini sempre detto. E lo ci vede un sì. po'. Ah sì? Sei un po' ancora in quel mondo lì, sì. Non vuoi crescere? No. Non ti va di crescere, chi è? Ciao, lui è uno dei tuoi bambini questo? Ce ne sono tanti stasera. Sì, davvero? Madonna. Dimmi che fertilizzanti usano, perché sono tutti belli cresciutelli. Il problema è questo. Ah, ecco, vabbè. Niente, io ho paura di aver toccato dei tasti dolenti. E dai, cosa fate? Dici un po', ma fate anche... Vabbè, sei educatrice, quindi cos'è, dopo scuola tipo? No, tutto il giorno. Ah, tutto il giorno? Nella scuola. Ah, nella scuola. Che hanno... Ah, ok, sostegno, insegnante di sostegno. Quindi, insomma, compiti, seguire le lezioni. Li segui anche nei compiti post scuola o no? No, perché sono troppo piccoli. Ah, ok, finisci lì. Bene, benissimo. Voi ragazze cosa ci dite della nostra Alice? O meglio, anche vostra, un po' nostra, un po' di tutti. Dai, qualcuno che si prende... Alice... No, ma non la donna del sé, non la donna del sé, ragazzi. Sì. La donna del sé è un problema. È un problema la donna del sé. Se non rientra a casa, non si sposerà. E tu quale opzione preferisci? Che rientri a casa e non si sposerà. No, ma è tua amica questa? Sì, o? Appunto, perché sono amica. Ah, ok. Cioè, ma perché ti sta sulle balle lui o perché non ti vuoi separare da lei? Cioè, cosa che non ti va? Sposarsi è solo il primo passo verso separarsi. Ah, perfetto. Infatti vedo che hai tutte le dita nude e qualcosa vorrà dire, giustamente, no? Bene, Alice. Direi che allora io direi che anche tu hai bisogno di un insegnante di sostegno e lei direi che è perfetta, perché come sostegno è incredibile. Cioè, direi che ti fa rigare sulla strada giusta. Sì, siamo a posto. Non puoi sbagliare. Allora, cosa vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Sì, saluto tutte le mie amiche, le ringrazio tantissimo per questa giornata. Ma tutte? Tuttissime. Tutte, sei proprio sicura? Tutte, anche lei. Anche lei, va bene. Sei una donna, si vede che fai l'educatrice, sei una donna di buon cuore. E non hai, come dire, non fai differenze, non fai preferenze. Va bene, io ho tentato di farti rovinare un'amicizia, ma non ci sono riuscito. Anche perché avevi comunque diritto di farlo, perché ti sta massacrando la vita. Ma lei è l'autista di domani, quindi le dobbiamo voler tanto fino a, okay. Allora fino a domani sera può andare bene. Allora è per quello, è acidità perché è l'unica a essere andata a acqua tutta sera. No, ciao. Ah no, ho smesso, niente. Devi guidare domani mattina, quindi va bene. Ah, ok, cioè è la designata per domani. Quindi stasera sta dando il meglio del peggio. Molto bene. Allora noi ringraziamo voi, ringraziamo le nostre ascoltatrici modello che ci stanno seguendo da fuori e che non hanno ancora cambiato orecchio, quindi probabilmente si saranno rovinate la vita per i prossimi 25 anni. Ringraziamo lui che ti sta salutando e vorrebbe tanto sposarti al posto del tuo futuro marito. Così, ho letto il labiale, mi sembrava dicesse quello. E buona serata, buon divertimento e buona fine festa. Ciao a tutti, grazie. Grazie a te, Alice. Ciao.